pogi, dai so pogi. L'unità è la loro forza, è la strada il loro credo. Contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai so pogi, dai so pogi, dai so pogi. Dai so pogi, dai so pogi, dai so pogi. Dai so pogi, un salutone a tutti e tutti e nuova puntata di Passaggi a Nord-Ovest, la trasmissione Radio Wombat che parla appunto di quello che accade nel nord-ovest della città e nella piana fiorentina, raccontato da chi nella piana e nel quadrante nord-ovest della città ci vive e ci lavora. Ricordiamo i Passaggi a Nord-Ovest va in onda il lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. Ricordiamo anche la potete riascoltare tramite podcast andando alla sezione apposita del sito di Radio Wombat, che è wombat.noblogs.org, e appunto il primo menu a sinistra è denominato podcast, è un menu a tendina, aprendolo, scorrendolo ci potete trovare i podcast di tutte le trasmissioni e quindi anche di Passaggi a Nord-Ovest. E siamo qui stamattina, oggi, questo primo pomeriggio, con un rappresentante di Cobas Ataf, Cobas Ataf appunto di Firenze, per farci raccontare le problematiche che vivono, di cui sono, che vivono come lavoratori e dall'altro lato di cui sono a conoscenza e che comunque possono incidono sulla qualità del servizio e quindi conseguentemente su l'utenza, ecco. E per prima cosa gli chiediamo proprio una delle ultime notizie rispetto al mondo ATAF, anche se magari non è la più importante o comunque quella di maggior contraddizione, comunque è apparso ultimamente sui giornali, che riguarda appunto l'accorciamento delle linee ATAF. Essendo Passaggi a Nord-Ovest, richiediamo la prima cosa cosa significa per chi vive, per l'utenza di questa parte della città, cosa significa l'accorciamento delle linee che partono da Campi, da San Donnino e via dicendo, e quelle da Sesto chiaramente. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, giustamente mi accennavi la notizia bomba, la notizia che fa più effetto di tutti è vedere sui giornali la scritta taglio alle linee il 28, il 2, eccetera, eccetera. Queste fanno parte di tutta una strategia che il Comune di Firenze e la Regione Toscana mette in atto sulla faccenda del quando partirà la famosa seconda e terza linea tranviaria. Sul gioco di questo ci giocano la faccenda continuando a dire a tutti vedete con la nuova tranvia avremo uno sviluppo talmente tale di trasporto che la Firenze sarà una città modello. Io comincerei proprio a analizzare la cosa un po' più da fondo facendo un discorso molto più ampio e partendo da un dato principale. Il dato principale è questo, che il trasporto pubblico fiorentino su gomma, quindi tutte le linee ATAF, le linee su gomma e la linea tranviaria, sia la linea 1 che è a tuttora, e la linea 2 e la linea 3 che verrà successivamente, tutte queste linee tranviarie e tutto il trasporto pubblico è completamente privatizzato, cioè è in mano al privato. Perché vi dico in mano al privato? Perché ATAF è stata a suo tempo venduta, è stata a suo tempo venduta dall'amministrazione Renzi e è stata acquistata da Bus Italia. Sappiamo bene di Bus Italia, Trenitalia, le Ferrovie dello Stato, eccetera, eccetera. Mentre la tranvia, e quindi la linea 1 e la linea 2 e la linea 3, le future linee, sono in mano ai francesi e alla RATP. Quindi praticamente il Comune di Firenze in questo gioco è praticamente solo ed esclusivamente un cliente. È quello che chiede a questi colossi, chiamiamoli così, a queste aziende di produrre servizio. Lui paga esclusivamente il servizio, quindi i soldi che vengono usati, i soldi dei cittadini contribuenti che vengono usati per finanziare il trasporto pubblico, sono soldi e vanno in mano a un privato. Quindi se c'è un investimento di X euro, questi X euro devono tener conto sì dei servizi da dover sviluppare, ma anche dell'utile che devono fare questi soggetti privati. Quindi cominciamo intanto a parlare, a fare un mente locale su questo. Chiaro che ogni servizio che io devo fare, che io comune chiedo, queste aziende me lo fanno solo, come si diceva, solo ed esclusivamente dietro un compenso soldi. Più chilometri faccio e più soldi prendo. Qualsiasi, rispetto a prima, rispetto a quello che era quando ATAF era, diciamo, pubblica, il servizio era pubblico, in cui la politica aveva anche un ruolo istituzionale in questo caso, ma aveva anche il ruolo di dover decidere per il cittadino e dover sviluppare un servizio proprio pubblico adatto, se metteva dei soldi, quei soldi erano per sviluppare chilometri. In questo caso, qualsiasi servizio anche aggiuntivo che possa essere fatto, esempio, faccio un esempio dei bus, per dire preferiscono avere i bus la notte, il servizio notturno e scadenze, soprattutto nelle periferie, periferie nord-est, ma anche periferie del sud, eccetera, eccetera. Non è che le aziende non lo vogliono fare, le aziende non lo fanno perché non vengono pagate. Cioè, va a finire quello che è praticamente il servizio pubblico, l'utilità della mobilità di cittadino, di giovane, della sera, di potersi muovere. Perché? Perché non vengono pagati. Quando durante il periodo estivo ci sono le varie navette per le varie la notte notturna, quelle sono soldi in più che il comune dà a queste aziende. Ed ecco che lo scenario dei tagli arriva su questo caso qui. Nel momento in cui io, comune di Firenze, decido di sviluppare e spendere milioni di euro sulla costruzione di queste, della linea 2 e la linea 3 della tranvia, è logico che devo recuperare chilometri rispetto agli altri chilometri che prima mi facevano determinate linee, come potevano essere i 14, come potevano essere i 2, come potevano essere i 28, come potevano essere i 30 o 35, che arrivavano dalla periferia, arrivavano al centro di Firenze. In questo momento io dico, il comune fa questa scelta che mi dice: perfetto, non c'ho la tranvia e mi passa velocemente, io ti porto a Piazza Dalmazia, per capirsi, le zone periferiche sempre, dalla periferia ti porta diciamo all'inizio della città, e da lì con la tranvia, con il mezzo super veloce, ti porti direttamente in giro. Perché appunto il 28 si fermerebbe a Piazza Dalmazia. Il 28 si fermerebbe a Piazza Dalmazia, sembra ancora... Queste sono tutte voci che circolano, perché ancora di preciso non c'è, perché ancora veramente non si sa quando parte... il discorso della tranvia è di preciso, nonostante che Nardella voglia annunciare o voglia fare magari uno spot viaggiando con un trenino vuoto solo lui per far vedere che è partito, però questa è la situazione. Sì, il 28 si dovrebbe fermare lì, il 30 dovrebbe arrivare in zona aeroporto, cioè, quindi praticamente addirittura neppure alla Leopolda come arriva fino adesso, insomma. No, alla è stato un accorciamento, insomma. Allora, altra cosa degli accorciamenti, com'è che sono dovuti questi accorciamenti? Perché si sta si parla sempre qui la politica, veramente, cioè la politica è stata fatta quella di allontanare il servizio pubblico dalla stazione. Tutte le linee, esempio quelle che venivano dal nord-est, come giustamente accennavi te, adesso si fermano alla Leopolda, il 28 si ferma a Montelungo, alla Fortezza, quindi praticamente c'è, cioè, le altre, il 14 che copre sempre questa zona ospedaliera, adesso nella direzione Bellariva, Pentenzi, nella direzione sud-est della città, non arriva più, non ritransita più dalla stazione. Stessa cosa del 23, un'altra linea che serve le fabbriche, quindi la zona industriale, non arriva nemmeno più anche questa alla stazione. Tutte nelle zone limitrofe. Questo è, si preferisce, nonostante tutto, continuare a favorire il mezzo privato per farlo entrare. Perché? Perché al centro della stazione c'è un polo d'attrazione che è il parcheggio sotto la stazione, con tutti i negozi, ecco, le nuove gallerie sono aperte, le nuove gallerie commerciali, è un parcheggio in cui praticamente poi c'è business, cash, insomma, praticamente c'è moneta fresca argento tutti i giorni, come si suol dire. Quindi, se ho capito bene, l'istituzione, diciamo, la messa in atto, insomma, della tranvia non accresce il chilometraggio, ecco, per l'utenza. Allora, non accresce assolutamente. Noi abbiamo un esempio. Quando è partita la linea 1, la linea 1 che serviva a Isolotto, sempre zone popolari. Guardiamo caso, si va sempre a andare su zone popolari, diciamo sempre la parte nord di Firenze. Quando è servito questo, le linee che portavano da lì verso il centro non sono state tagliate. Da Scandicci, da Firenze, se uno vuole arrivare a Scandicci, l'unica cosa che può prendere è solo esclusivamente la tranvia, non ci arrivi con altre soluzioni. Quindi è logico che su questo i passeggeri si vedono sempre tranvie piene. E anche considerate che il comune di Firenze ha già stanziato 18 milioni di euro da dare ai francesi per la linea 2 e la linea 3 per un anno per i passeggeri. Oltre ai costi di costruzione per la tranvia. Quindi i costi di costruzione della tranvia sono a parte. In un momento per la gestione, per il chilometraggio, quando ti dicevo che questi fanno servizio chilometri se vedono soldi, per fare questo loro gli devono garantire, già nei project finanzi della costruzione della tranvia, loro avevano già garantito un tot numero di passeggeri. Diciamo a fondo, cioè senza sapere quanto rientrerà, ecco, da un punto di vista dei biglietti e via dicendo. Ma sai, i biglietti, ti ripeto, non li prende mai il comune, li prende ugualmente la società. Comune no, allora, i comuni, la politica, in questo caso se ne è lavate le mani del servizio, non prende un centesimo, spende e basta. Questo c'è. Questo è ben chiarissimo, perché i biglietti fanno parte del 35% dell'incasso delle aziende. L'altro 65%, 35% quando arrivano a un'evasione non è alta, perché c'è aziende sono assolutamente minori. No, noi diciamo, come in Atomo e Firenze, gli introiti dei biglietti e degli abbonamenti coprono il 35% dei ricavi dell'azienda. L'altro 75% è dato dal costo chilometrico che il comune o la provincia o la regione paga per fare servizio. Quindi il comune pagano e basta, non hanno un riscontro di un rientro, non rientro niente. Questo, ti dicevo, è solo esclusivamente un cliente che chiede e fa. No, cioè, è finito, dando in mano al privato, è finito quello che era l'utilità della mobilità pubblica vista come mobilità sociale, come cosa, cioè, che fai per il tuo cittadino. Il tuo cittadino ha bisogno di una corsa in più la mattina perché c'è da portare qualcosa. Il comune non lo può fare, cioè se lo fa deve chiedere a ATAF o chiederà a Ratepe se intendono farlo su rotaia, di fargli una corsa in più, e questa corsa in più a chilometri, questi chilometri costeranno e dovrà tirare e sborsare altri soldi a quelli già che dà. Questo, diciamo, dal punto di vista dell'utenza rispetto ai disagi e dei cittadini in generale rispetto ai costi. Dal punto di vista dei lavoratori? Dal punto di vista dei lavoratori, ora in questi anni abbiamo visto quello che è stato lo scempio di Firenze, come è stata ridotta la situazione con questi cantieri. Quindi su questo le condizioni di lavoro sono estremamente peggiorate, dovute al traffico, dovute alla situazione, dovute all'incanalamento, eccetera, eccetera. In più c'è da dire una cosa, secondo me. Le aziende su questo ci stanno giocando molto, nel senso che il traffico c'è poco da fare, chi viaggia un po' per Firenze lo vede, anche il motorino spesso e volentieri si resta bloccati nel traffico, quindi con la faccenda di questo traffico che esiste, che è realmente i punti nevralgici come stazione, fortezza, viale, circonvallazione spesso e volentieri sono bloccati e quindi si resta tutti bloccati, facendo leva su questo le aziende riescono anche a coprire quello della mancanza di organico, la carenza di organico proprio, e quello che sono praticamente la riduzione dei turni e la riduzione degli orari per le corse. Se una corsa, cioè se quando ormai siamo in ritardo, cioè gli auto viaggiano con 50-60 minuti di ritardo, un'ora di ritardo e più, non c'è più controllo su quante corse sono state effettuate, qual è stato fatto, cioè io posso tranquillamente giostrare, alla fine quando dovrò rendere un rendiconto dice ho fatto meno 100 corse, ma perché sono rimasto bloccato in traffico, magari queste 100 corse ne ho programmate soltanto 80. Ecco, diciamo, per il sindacato, comunque per i lavoratori ATAF, è difficile, cioè diciamo è più difficile in una situazione come questa avere dati alla mano per dimostrare che occorrerebbe un numero, una pianta organica più più grande, insomma, ecco, più lavoratori, o comunque più lavoratori di quelli ce ne sono attualmente. Ma sai, quello è capibile perché bene o male i chilometri che si dovrebbe fare, i turni che vengono fatti sono quelli, e quindi non riusciamo a capire quanto sull'organico. Stiamo sempre abbastanza sotto sull'organico. E poi consideriamo, anche quando si legge sui giornali ultimamente assunzione ASAF, eccetera, eccetera, consideriamo che in ASAF non sono state fatte più assunzioni. Chi viene assunto adesso sono tutti ragazzi che vengono dal sud, dal nord, dal paese, ma sono assunti a Bus Italia e sono in distacco presso di noi. Perché? Perché hanno un contratto di secondo livello diverso. Con un'altra azienda. È l'azienda madre. Loro sono assunti dall'azienda madre, che è Bus Italia. Bus Italia poi li distacca presso ATAF. Però loro hanno il mio stesso orario, hanno le mie stesse diciamo giorni di riposo, eccetera, però hanno uno stipendio diverso, hanno delle indennità diverse, perché vengono, hanno un contratto di secondo livello diverso rispetto al mio, e loro è minore, quindi ecco che loro, cioè, risparmiano su questo fatto qui. Risparmiano, ma anche diciamo creano una sorta di divisione, o vogliono tentare di creare una sorta di divisione tra lavoratori, perché diciamo c'è una parte dei lavoratori non avendo le stesse tutele sindacali, diciamo, di quelli che sono stati assunti direttamente da ATAF. Certo, adesso siamo tanti, perché sono quasi 180 adesso i ragazzi, su un gruppo di 880 autisti, capisci bene, quasi 180, poi via via c'è stato pensionamenti quest'anno e quindi vengono riassunti altri, quindi una gran parte, 200 persone, sul resto è tanta roba. E poi, attenzione, sono tutta gente assunta con i Jobax, non ci scordiamo questo, quindi ricattabili al massimo su questo. Infatti gli ultimi scioperi, se non c'è stato le percentuali bulgare di sempre, è dovuto al fatto che questi ragazzi, bene o male, sono costretti tra virgolette a lavorare. Ecco, per dare un'idea di quanti sono lavoratori in ATAF, in questo momento siamo sotto le 1000 persone, 950 persone, di cui 870 autisti, un po' di impiegati. Non esistono più gli operai, purtroppo, in ATAF. È una carenza e si sta vedendo assolutamente. Sì, in questo caso è perché, per esempio, quando si guastano i mezzi, questa roba qui, diciamo, c'è meno manutenzione. La manutenzione è tutta esterna. Allora, noi abbiamo rimasto soltanto le officine con 6 operai, che sono da supervisore, che servono un po' per il pronto intervento, per una freccia, per un qualcosa, praticamente. Poi il resto è tutto in full service, cioè hanno acquistato il Mercedes ultimamente, e la ditta Mercedes manda i suoi operai e in full service e fa le riparazioni. Infatti, quello che sta succedendo, che queste aziende, anche per risparmiare non tanto le aziende, diciamo, operaie, ma quanto le aziende ATAF, per risparmiare hanno fatto un contratto che il full service è coperto dal lunedì al venerdì. Dal venerdì alle 5 le officine chiudono. Quindi se c'è un guasto, problemi, infatti succede sabato e la domenica. La sabato e la domenica riesci, perché c'è riduzione di servizio, riesce. Il problema sta la mattina del lunedì, che non ci sono autobus, e non è successo anche l'altro giorno, l'ultimo lunedì, di cui 30 per 30 autisti sono stati a aspettare fino alle 9:30-10 che fosse riparato un autobus per uscire, e quindi quelle sono corse e vengono, perché si perdono. Però nel buglione, chiamiamolo così, del traffico, queste 20 orse, anche il cittadino l'aspetta, non se ne rende più conto, perché non sa mai più quando passa l'autobus, capito? Ecco, per quantificare anche diciamo quanto come è cambiato, diciamo, il numero degli addetti, degli autisti ATAF da prima e dopo questa privatizzazione, insomma, quanti erano prima? 200, ci sono 200 e rotti autisti in meno. Quando siamo stati venduti, mi sembra, così occhio, mi ricordo, erano 1150, che poi c'è stato vari pensionamenti, e gli autisti eravamo sempre intorno ai 1000, gli autisti, perché il rapporto, diciamo, gli operai impiegati è rimasto uguale. È cambiato, è diminuito il discorso degli autisti, ecco. Ecco, in questa diciamo privatizzazione, si parlava, o meglio, da esterno, leggendo i giornali, via dicendo. I depositi, il deposito Viale dei Mille e il deposito di Peretola, sono in qualche modo interessati oppure rimarranno tali? Ecco. No, i depositi sono in affitto. Il Comune di Firenze, quando ha deciso di privatizzare, ha separato in due l'azienda. L'azienda, diciamo, gestione, che è quello che quella che fa il servizio, e ATAF è rimasta pubblica, diciamo, è quella da impianti, diciamo così, che è quella che gestisce, che ha in mano i depositi di Peretola, delle Cure. No, i mezzi sono la gestione, cioè sono di Bus Italia, per intendersi. Questo qui. Cioè, il Comune di Firenze prende l'affitto. Mi sembra siano sui 2 milioni e mezzo, 3 milioni d'affitto, e prende per tutto il parco, insomma, per i depositi e per la gestione delle paline, le infrastrutture, diciamo, la fermata di per sé stesso, la pensilina di ATAF è pubblica, diciamo, quella è pubblica, insomma, è di cittadino, ecco, diciamo così, mentre l'ATAF, mentre il bus non è più di cittadino. Ecco, anche su questa, magari può sembrare una piccola problematica, però anche rispetto alle pensiline, insomma, a volte sono disagevoli, a volte non ci sono. C'è una ragione per questa cosa, oppure è solo una malgestione da parte di ATAF? Ma sai, lì penso sia anche una gestione di costi. A questo punto non hanno più rimesse, le risistemano, cosa. Pensano più alla palina intelligente più che alla pensilina. Per capire, pensa più, fatti vedere la pallina e ti illumina magari e ti dice quando passa l'autobus, nello stesso tempo ti manda anche un po' di pubblicità nel frattempo, che te è coperto, ecco, quello lo vedo in questa maniera qui, mi sembra più sia più così, ecco, la faccenda sulla pensilina. Ci mandiamo un pezzo musicale, ma risentirci fra 4 minuti circa. Eccoci qua, sempre Passaggio al Nord Ovest, vi ricordiamo il sito da cui state ascoltando la diretta streaming, wombat.noblogs.org. Nello stesso sito potete appunto trovare i podcast e tutte le notizie relative al palinsesto di Radio Wombat e le informazioni, le ultime notizie, informazioni sia rispetto a quelle che sono le trasmissioni, sia le ultime notizie rispetto alle attività della radio. Vi ricordiamo anche il profilo Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, la posta elettronica per suggerimenti, complimenti, critiche, insomma tutto quello che volete dire, ci volete dire, postabomba@insiberia.net. E ricominciamo, risentiamo. Alessandro, a cui gli chiediamo, c'è anche un problema per l'utenza, c'è anche un problema di costi. Il biglietto attualmente costa 1,20 1,20. 1,20 e pare che venga portato prossimamente a 1,50 euro, 1,50 euro. Sì, no, senza pare, sarà sicuramente così. Questo è tutto frutto della famosa gara regionale unica che c'è stata in Toscana. Qui si aprirebbe veramente uno scenario avvolto da divertimento, sarebbe veramente da film da Tarantino, insomma, su questa cosa, di questa gara regionale. La gara regionale è voluta fortemente da il governatore toscano Rossi, che ha voluto questa gara, e anche questa gli è saltata, ma gli è saltato tutti i vari progetti faraonici che stava facendo, e questa l'ha cercata in tutte le maniere di tenerla in piedi. Ma cosa è successo? Hanno praticamente concorso due grosse aziende. Una è Mobit, che è un consorzio delle aziende, tra cui Bus Italia, capofila di tutte le aziende toscane, di quelle che gestiscono adesso il trasporto. E più dall'altra parte si sono presentati i francesi, quelli di Autolinee Toscane, quindi però quelli che gestiscono la tranvia, per intendersi. La vittoria è stata aggiudicata ai francesi, e a questo punto, apriti cielo, apriti terra, si è aperto uno scenario di ricorsi ai TAR, ai tribunale. Adesso siamo ai ricorsi al Tribunale Europeo, quindi è già 2 anni che stanno andando avanti con i ricorsi. A questo punto, prima di farla completamente saltare del tutto la gara, perché credo che a questo punto non si sarebbe potuto permettere l'ennesimo fallimento, ma già di per sé stesso si ritorna al discorso che avevamo fatto all'inizio: mettere in vendita, mettere in un bando di gara un servizio pubblico continua a essere voler privatizzarlo in un'altra maniera, insomma. E eccoci, a questo punto ha deciso di vedere se riusciva a trovare un accordo, perché non siamo arrivati a niente, perché non ha potuto assegnare il servizio perché continua ad essere questi ricorsi, eccetera. Ha cercato di far mettere d'accordo tutti e praticamente ha rifatto un accordo ponte, che l'hanno chiamato così, in cui hanno fatto una scarle gigante, in dove tutte le aziende, da quelle Mobit, quelle perdenti, a quella vincitrice, si sono unite insieme in questa unica scarle e si stanno spartendo tutto il servizio, e quello che costa la regione toscana, che sta dicendo: ah, finalmente arriveremo a un'unica tariffazione, eccetera, eccetera, avremo finalmente un'unica referente, io avrò un unico referente su cui ragionare, però qui sono veramente milioni e milioni di euro che questi si spartiscono, e in più anche come contropartita, subito da quando partirà tutto questo, dalla prossima primavera, credo, la prossima estate, il biglietto sarà a 1,50 euro. Quello è Questo sia chiaro. per Per bus sia per la tranvia. Ecco, bus e tranvia, sì, tutto uguale. una cosa, anche questa come particolarità, diciamo, i mezzi ATAF che sono stati inaugurati gli ultimi 30 bus. Vabbè, quello fa parte della scenografia del nostro ex presidente, perché adesso non è più lui l'amministratore delegato, però adesso ha fatto carriera, perché Mazzoncini è l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, quindi fa parte dei suoi show, quello degli autobus moderni, gli autobus con 2 porte d'entrata, eccetera. Sono autobus in effetti belli a vedersi, più belli a vedersi, io credo. Per a livello d'utenza, sì, l'aria condizionata in effetti funziona. Rispetto a altre città sono migliorate, però ecco, sono autobus che la capienza rispetto a quella che è praticamente. Non siamo abituati, cioè la politica era quella: tutti devono passare tutti davanti, così marcano il biglietto, fanno vedere l'abbonamento, eccetera, quindi la porta davanti per salire. No, forse non è il nostro stile italiano quello dove si sia fatto tutte le file, però io comincio a capire forse anche dove i paesi hanno preso, lo spunto, in Inghilterra o in Francia, come diceva lui quando presentava questi autobus, in cui tutti gli utenti, i cittadini fanno la fila per montare sull'autobus. Io credo che qui a Firenze, ma penso in tutta Italia, visto che l'autobus passa ogni morte di papa, nel momento c'è la fila, mentre arriva la gente fa la corsa per montarci sopra, se no rischia di rimanere a piedi. Questa è la realtà dei fatti. Quindi invece inaugurare nuovi bus, insomma, sarebbe un po' più da fare, a migliorare il servizio nella sua interezza, ecco. Il servizio nella sua interezza, ma quello, la mia paura della nascita di questa tranvia, perché stanno facendo un grande spot su questa nascita della tranvia, Nardella e tutta l'amministrazione comunale sta dicendo: nel momento in cui partirà la linea vedrete che la città sarà completamente rivoluzionata, avremo un servizio all'eccellenza rispetto a tutte le altre città. Bisogna cominciare a considerare una cosa: uno, dove adesso c'è i lavori, dopo ci sarà la tranvia. Quindi non è che acquistiamo posto. Strade strette come via di Novoli, come via di Romito, come via dello Statuto, per capirsi, saranno strade strette in cui ci passerà una macchina e basta. C'è la tranvia, una macchina e via basta. Morgagni. Via Le Morgagni. Cioè, Piazza Dalmazia. Sarà sempre, è sempre in zona stazione. L'attraversamento intorno a Viale Belfiore, che attraversa tre volte la tranvia, e che se ogni passa ogni 3 minuti e mezzo, ogni 3 minuti e mezzo, chi vive a Firenze sa bene cosa vuol dire Viale Circonvallazione. È come a Roma per bloccare per 3 minuti e mezzo ogni pochino il raccordo anulare per far passare un treno, per capire una cosa. Quindi bisogna che la gente non usi più l'auto, non usi più la macchina, ma vada a prendere il tram e la tranvia. L'auto, riusciamo, cosa, cioè ci vuole potenziamenti. Il comune sta dicendo metterà i soldi in più, però consideriamo anche il fatto che la tranvia serve la parte nord-est, perché tutta la parte zona sud, tutta la parte che è Campo Marte, tutta la zona, non è servita dalla tranvia, quindi dovrà essere più potenziata con gli autobus. Riusciremo a potenziare questo, ma poi il cittadino è convinto che deve arrivare per andare a Careggi e sa che deve prendere un auto, scende in un posto, prende un'altra tranvia, cioè non c'è più il collegamento diretto, c'è più l'intermodalità di mezzo, scende su uno, rimonti su un altro, riscende su un altro. Per esempio, quando è partita la linea 1, per fare un esempio, dall'isolotto per arrivare allo stadio, per capirsi, uno deve prendere prima un autobus che lo porta alla tranvia, dalla tranvia prende un autobus, lo porta alla stazione, dalla stazione prende un autobus, lo porta allo stadio, per capirsi. Prima bastava con un io mezzo arrivava allo stadio. Quindi se i mezzi funzionano, se l'interscambio funziona, va bene, ma ho la vaga impressione che l'interscambio difficilmente funzioni. E penso anche che non sia solo un problema di spazio, ma anche un problema di tempo, nel senso che dovrebbero essere magari potenziati, visto anche i nuovi lavori e i nuovi orari di lavoro, la gente, diciamo, non ci sono più la stragrande maggioranza dei lavoratori, magari precedentemente, negli anni passati o fino a un po' di tempo fa, aveva gli orari di lavoro abbastanza uniformi, tipo la mattina alle 8, alle 9, fino la sera alle 5, alle 6, fino al venerdì. Ora, con queste esternalizzazioni, con questo lavoro sempre più selvaggio e precario, lavoro di un turno, lavoro il sabato, lavoro la domenica e via dicendo. Quindi, ecco, quindi non soltanto un problema di spazio, ma anche un problema di tempo, nel senso che dovrebbero potenziare anche la sera, la domenica. Ma si torna lì, potenziare per le aziende non ci sono problemi, anzi più chilometri fai più contenti sono, bisogna vedere se ci sono i soldi. Il Comune di Firenze dice ha stanziato per poter mantenere 1,5 milioni di chilometri, teoricamente sarebbero dovuto andare via con la seconda e terza linea della tranvia, ha stanziato, dice, 4 milioni di euro che... Io la vaga impressione l'ha stanziati per quest'anno, molto in mente, perché dovrà far vedere, è perfetto, funziona, però non so quanti questi 4 milioni continueranno ad andare e quanto dopo il gioco varrà la candela se la gente poi non lo prende. Cioè, io ho molti dubbi su questa cosa qui, perché sono dubbioso nel senso che non vedo, ho paura che poi la gente, le persone alla fine non abbandonano la macchina per il mezzo pubblico perché non lo reputano efficiente, perché qui continuerò a fare la fila tranquillamente con autobus insieme alla macchina e poi il cittadino mi viene in macchina, non prende l'autobus, fa più, è questo il problema. Sì, io faccio esempio per me che abito a Campi, se devo arrivare nel luogo dove per esempio sto trasmettendo, non ci arrivo, ecco, da questo punto di vista. Poi va considerato anche che sempre più persone abitano, questo è anche un problema più di carattere generale, però sempre più persone, non solo si è spopolato il centro storico, ma si comincia a essere spopolata anche le immediate vicinanze del centro storico, sempre più persone per problemi di costi, specialmente i costi degli affitti, abitano oltre quelli che sono ora i capolinei anche più esterni, ecco, della linea ATAF, insomma. E quindi per andare a lavorare gli ci occorre per forza la macchina, insomma, ecco. Sì, non vedo parcheggi scambiatori o cose che la gente possa arrivare. Spero nell'integrazione tra la ferrovia e il Metrobrio, ma son sogni, sono speranze, è anni si sente parlare di questa cosa qui, è anni e sappiamo benissimo che all'interno della città c'è una linea ferroviaria che potrebbe essere potenziata, che fa Campo di Marte, fa Cascine, fa tutto in questa maniera, che non è mai potenziata, Non è mai potenziato perché si riesce all'alta velocità, è perché si chiaro. preferisce spendere soldi per l'alta velocità. E tra l'altro, questa penso non mi interessi direttamente, ma anche questa proposta di trasformare l'enorme buco in Piazza dello Statuto per parcheggio degli autobus a lunga percorrenza. Ecco, e quindi loro sostengono che verrebbe, diciamo, tolto un po' di traffico lì dalla zona intorno a Piazza Stazione, però insomma sono tanti soldi spesi per poco, Ma insomma, ecco. sì, non so, quelli poi sull'auto a lunga percorrenza, bisogna guardare, cioè, se si considera l'auto a lunga percorrenza, se guardiamo quello, diciamo, che faceva la Sita, per capirsi, che porta che fa l'est urbano, già quello è già penalizzato, perché anche questo è un cittadino che viene da fuori. Cioè, l'est urbano, uno che viene a Monte Spertoli per fare Quelle si un'oralità, che viene fermavano da al Siena, che Bagheanna, insomma. viene da Andria, hanno lì cose, e anche questi vengano lasciati fuori. È diverso, cioè. Io faccio un esempio tipo che è stato fatto per preparare ai cittadini di Villa Piana, ok? Se io voglio fare il bravo cittadino fra virgolette, e decido di prendere l'autobus i 30 da Campi o i 35 da San Donnino, quello che mi interessa, per venire in centro, io arrivo e mi vengo portato, vengo lasciato alla Leopolda. Dall'aeroporto prende la tranvia e mi porta a città. Vengo lasciato, non vengo portato alla stazione. Chi viene in macchina, chi decide di venire in macchina, arriva tranquillamente dentro la stazione. Cioè, è una cosa. Questo ho paura che non ci sia quello sviluppo poi di cosa. Perché, bene o male, il mezzo privato fa sempre più comodo, ha sempre più gioco, perché c'è sempre degli interessi che possa essere, che debba essere preso. Si diceva sulla lunga percorrenza, questo è un conto. La lunga percorrenza, questo mi apre un confronto, perché ci sono questi nuovi bus che vanno Basilicata, eccetera, eccetera. Lì veramente bisognerebbe riuscire a entrarci sindacalmente dentro lì per vedere quello che succede, perché lì veramente siamo allo sfruttamento al massimo, dei lavoratori, delle cose. Veramente da un giorno all'altro li fanno pagare, li licenziano, cioè hanno veramente il messaggio dove andare, prendi il bus e vai a Benevento, per dire, una città, insomma, a lunghe percorrenze, sicché questi che si vedono. Questo veramente stanno diventando un pericolo, nel senso per gli autoferrotranvieri, nel senso per il contratto, eccetera. Finisce qui la prima parte dell'intervista al COPASS ATAF ad Alessandro. Appuntamento la prossima volta per la seconda parte. Ciao ciao!